Okay. It's your man. Mr. Stess, non si sa che cazzo fare. Questi tempi da così. Lifestyle 96. Cosa fai? Cosa vuoi? Questi tempi la gente non sa più che fare. Dove vai? Dove vuoi? E la sera non si sa più dove andare. Cosa fai? Cosa vuoi? Questi tempi la gente non sa più che fare. Dove vai? Dove vuoi? E la sera non si sa più dove andare. Ma di sti tempi è troppa la gente che in giro vaga, troppe persone sono perse nella strada. Chi si consola con troppi sorsi di rum fino a non vederci solo per tirarsi un po' più su. Ma su ed i ragazzi che vanno fuori di testa, che non amano le donne, le tagliano la testa. Cazzo man, è colpa di questo sistema che ci toglie il lavoro e dai problemi nella schiena. La gente ammazza gente perché c'è troppa rabbia, la mente che sia male chiusa dentro in una gabbia. Non si sa più che fare, la vita non ci sta anche per nascondere i problemi. Usi la farina bianca, staccati da ogni problema che ti poni. Fai una strada tutta nuova e troverai altre soluzioni. La sera non sai proprio dove andare, rimanitene a casa con una donna da amare. Cosa fai? Cosa vuoi? In questi tempi la gente non sa più che fare. Dove vai? Dove vuoi? E la sera non si sa più dove andare. Cosa fai? Cosa vuoi? In questi tempi la gente non sa più che fare. Nei giornali e se guardo la TV ogni giorno vedo stragi, troppo sangue scende giù, troppo odio è stato seminato in tutto lo stivale. Tutto ciò che si raccoglie è solo un'azione di male. Famiglie rovinate da ragazzi delinquenti, così loro li chiamano, io li chiamo sofferenti. È la situazione in cui si trova una persona, la vita che conduce, la gente della zona, gli amici che frequenta in ogni singolo momento, quelli che ti stanno accanto quando sembri morto dentro, quelli che per sentirsi fighi fanno tutto, fanno male con la droga il giorno dopo scatta il lutto. Quelli che la sera non sanno che cosa fare, vanno dritti in discoteca col pretesto di ballare, passando il loro tempo tra un sorso e dopo l'altro, e per tornare a casa in fretta dopo un po' scoppia il disastro. Cosa fai? Cosa vuoi? Questi tempi la gente non sa più che fare.